Signore e signori, sono le 8 del mattino, seconda ora di Pane, Burro e Rock and Roll, siamo tornati! Pane, burro e rock and roll. Ciao, ciao! Anche a te, ciao! La tua colazione rock! Eh sì, mercoledì 2 gennaio! Ogni giorno alla mattina ascolta Rock and Roll! Il benvenuto anche agli amici e alle amiche della seconda ora di diretta di Pane, Burro e Rock and Roll. Vi tireremo per le orecchie fino alle 9 del mattino. Buon 2008 ancora dalla voce dell'Ariele. La ripresa di Pane, Burro e Rock and Roll difficile, dura, in questa puntata 152. È una puntata ricca di emozioni contrastanti. La grande emozione di tornare in diretta, la gioia di tornare a parlare al microfono di Rock FM, e in contempo la dura etichetta di Pane, Burro e Rock and Roll, un programma contro, un programma cialtrone. In questi giorni strani, in questi giorni di interregno dell'inizio del nuovo anno, nel quale un po' tutti i mezzi radiofonici diventano cialtroni, no? Vi augurano un buon 2008, vi chiedono cosa avete fatto, quelle cose lì. Quindi oggi è un po' strana, perché noi non sappiamo cosa chiedervi, perché non vogliamo fare come gli altri. Abbiamo questa cosa di voler essere a tutti i costi diversi, e quindi è difficile. Intanto speriamo siate contenti solo di risentirci. Io vi segnalo il 335 100 7777, che è il nostro numero di SMS, grazie al quale torniamo a salutarci nella mattina di Rock FM. Tante le novità che vi faremo ascoltare e tante le abitudini che dobbiamo tornare a riprendere, no? Più o meno ce l'ho fatta. Buona giornata. Of love betrayed, and the innocence, all a child is bought and sold in the name of the damned. The rage of the angels left silent and cold. belle, rubriche belline, rubriche brutte come quelle tenute da lei solitamente in questa trasmissione radiofonica e rubriche interessanti. Grazie, la sincerità le fa onore. Prego, prego. E lo strano ma vero è una delle rubriche interessanti di Pane, Burro e Rock and Roll. Piace molto anche le ansie in ansa. Ringraziamo Isaac Rizzi per quella di quest'oggi. Mi tuffo, la leggo, vado. Ma certo, inizi pure. Universo, osservarlo troppo lo distruggerà. Scoprire troppo sull'universo potrebbe far sì che lo stesso collassi prima del suo tempo naturale. Questa è la teoria di due importantissimi ricercatori americani, professori Lawrence Krauss della Case Western Reserve University e James Dent della Vanderbilt University. Ringrazio la redazione che sperava di impantanarmi in questi nomi, invece ho dato prova del mio mestiere. È prego. Andato benissimo. Grazie. I due scienziati, ripetiamo, James Dent e Lawrence Krauss, fantastico, per non essere da meno, sì, forti del principio generale della fisica quantistica, secondo il quale certi fenomeni esistono in uno stato di incertezza e acquisiscono invece la, fra virgolette, realtà solo quando vengono osservati o misurati, la vita dell'universo potrebbe ridursi drasticamente a seguito delle osservazioni e delle scoperte fatte dall'uomo. Mi sta già venendo mal di testa, ma proseguo. Gli scienziati, se così fosse, potrebbero aver già accorciato considerevolmente la vita del cosmo. I due esperti ritengono plausibile che il semplice atto dell'osservazione abbia ridotto i possibili stati d'esistenza, limitandone pertanto le potenzialità. Sul tabloid britannico Telegraph, che ha riportato l'inquietante quanto irreale notizia, si calcola che per via di questo meccanismo l'universo stesso potrebbe aver già perso almeno un quinto della sua massa totale. Ma scusi, per sillogismo, se io la fisso intensamente sulla pancia potrebbe dimagrire. La guardo? Ma sì, facciamo questo esperimento. Io la fisso, Ma naturalmente che posso anche pagare. Che bella pancia. Beh, speriamo di rimediare da qui a stasera. Dice che funziona spazio pancia. Ma guardi, sono disposto a darle anche un 20 euro se la cosa a fare fatto ha successo. pain, pain. David Bowie, Duca Bianco, yeah. Torna anche lui nella diretta di Pane, Burro e Rock and Roll. Allora, puntata atipica quella di quest'oggi, come probabilmente a questo punto tutta la settimana corta, dai. Ormai iniziando mercoledì, facciamo così anche giovedì e venerdì. Atipica più che altro nell'interazione, ecco. Nel senso che noi siamo qui, riceviamo i vostri sms, ma non abbiamo ancora preso forti decisioni sulle nuove rubriche da fare con voi là fuori. Chi già conosce la nostra trasmissione sa che abbiamo una lista di inviati, che tra l'altro la redazione gentilmente mi ha stampato, che carini. Mi piacerebbe avere una cartelletta di Pane, Burro e Rock and Roll come quelle che hanno in televisione. Ci abbiamo anche il logo di Pane, Burro e Rock and Roll. La vorrei in ferro, un ferro battuto, con sui numeri dei nostri inviati. In questa settimana corta io lancio l'appello invece a chi di voi là fuori, nel corso delle vacanze natalizie, anziché pensare alla propria serenità, ha pensato a cosa fare per Pane, Burro e Rock and Roll. Secondo me qualcuno c'è. Quindi 335-100-7777, iscrivetevi e proponetevi come inviati di Pane, Burro e Rock and Roll. Non ci vuole una scienza diventare inviati di Pane, Burro e Rock and Roll. Non sto a ricordarvi i nostri inviati perché non vorrei offenderli, però ci vuole solo proprio un minimino di impegno, niente di più. Non abbiate timore di proporre le vostre idee perché avete paura che possano non piacerci. Qua raccattiamo tutto, non so se si era capito, Va bene, questa era una piccola parentesi. Tra l'altro invece ci sono tantissimi messaggi carini quest'oggi, anche se non c'era un fil rouge. Cercherò di dare lettura a qualcuno. Il tempo velocissimo di ricordarvi che molte delle rubriche storiche di Pane, Burro e Rock and Roll ovviamente resteranno, come quella che da sempre chiude il terzo blocco di diretta, quindi alle 8.25, 26, 27, la domanda del test attitudinale, a quella proprio non ve la leva nessuno, per accumulare anche quest'oggi, se azzeccherete la risposta, 2 punti per la vostra prossima patente da vero rocker. Ho segnalato agli amici della prima ora, agli amici toscani, che per un centinaio di puntate ci hanno insultato dicendo che non eravamo ancora mai arrivati in terra toscana a portare le patenti da vero rocker. Ricordatevi, sabato 12 gennaio saremo a Firenze con i nostri test attitudinali. Dicevo, qualche sms molto carino, c'è per esempio questo: ragazzi, non c'ho voglia di ricominciare a lavorare, voglio andare a fare la settimana bianca come i fighetti. Ah no, noi siamo rock, siamo contro, siamo diversi, ok. Molto rock come messaggio. Abbiamo un Eric triste, che ha iniziato un nuovo anno un po' tristino perché la ragazza che gli piace ieri sera doveva chiamarlo ma non si è fatta sentire. Resisti, Eric, resisti ancora un paio di giorni, poi al massimo richiama tu, no? Ma non farti prendere dalla fregolina che frega tutto, eh? E l'altro messaggio, anche questa è un'intuizione molto carina che voglio regalare a tutti i radioascoltatori, le geniali intuizioni dei radioascoltatori di Pane, Burro e Rock and Roll. Cari amici, se torno a nascere voglio fare la gallina, almeno so subito a cosa vado incontro. Un abbraccio a voi di Pane, Burro e Rock and Roll. Un abbraccio a te, caro Franz, bentornato. Oh, avete quella carognetta lì da inizio anno? Avete il dubbio che il 2008, l'anno della svolta, potrebbe essere la svolta sbagliata? Non pensateci, ascoltatevi gli Stones. Why? Tornati dalle vacanze natalizie, caro Frick, sicuramente un peso lei se l'è tolto, non deve più portarselo a casa. Esatto, dopo settimane bianche terribili. In bianco, settimane bianche in bianco mi sembra una ripetizione doverosa. Per annunciare il nostro giovane metallaro di riferimento. Aia. Si chiama Francesc, per non fortuna. Lo pronunci. Non è più nei nostri studi, Francesc! Come va, Francesc? Francesc, ciao. Ti manchiamo, Francesc? Brucia le culo. No, ma non iniziamo, Francesc. Che simpatico birbante. No, che cos'è sta che roba? Che simpatico birbante. Ma mi imparate a Natale i cuginetti, capito? Le vacanze, Natale, allora. Cuginetti cattivi, ecco. Capito? Gli imparano le parole. Mi hanno regalato un sacco di cose. Oh, è arrivato Babbo Natale. Arrivato Babbo Natale. Oh, bene, ti ha portato... Metal, Babbo Natale era metal? Metal, un sacco metal, nei parchi. Ma tu l'hai visto, Babbo Natale? No, ho visto dietro. Che stavano via, stava a scappare. Io non ho capito, forse perché mi inseguivo con la mazza chiodata. Ok, va bene. Hai visto il retro della slitta? Sì. Ah, che targa aveva? Fiamme, capito? Fiamme. Babbo Natale metal, va bene, potevamo aspettarci. Senti, ma io che voglio dire che mi ha regalato. Che cosa ti ha portato di bello? Allora, mi ha regalato, no? I gormiti. No, ma che cazzo è questa roba? No, per me, l'ultimo disco dei Motley Crue. No, allora senti, ma alle femmine, no? Ah. Altro che schifo, le femmine che puzzano nella fregna. No, Francesca, sta storia delle femmine dobbiamo accettarla prima o poi. Crescendo imparerai. Bambolotti, no? Eh. A me mi hanno regalato un bambino di Satana. Come un bambino di Satana? Al posto di un bambolo. Bambolotti non è un bambino di Satana. E come sono i bambini di Satana, Francesca? Spacca un po', però se gli metti la vaschetta, dopo la fate, un po' impara a fare i bisogni la vaschetta. Ah, perché è vivo? Sì, sporca un po', diciamo, sporca i pavimenti del pentagono. È un clone. Delle stelle, capito? Fai i pentagoni per terra, ma no, non ci posso credere. E sui muri anche. Devi stare attento, sì. Dappertutto, le macchie, capito, le impronte del sangue sui muri. Mannaggia. Insomma, dai, gli voglio bene un po'. Devi stare attento, gli vuoi già bene? Un pochetto. Un pochetto. Stai molto attento. Me l'hanno regalato. Ti sei affezionato? Un disco di canzoni di Natale metal. Un disco di canzoni di Natale metal? Sì. Allora c'è sta dentro tipo tu scendi dagli inferi. Ma cosa stai dicendo? Tu scendi da? Dagli inferi. Merry birra. Merry birra. Ma quella è Merry Christmas. E Jingle Satana. Ma come Jingle Satana? Jingle Satana. C'era. Sì, no, Francesco, guarda, veramente non riesco a capire quanto tu non ci stia prendendo veramente per i fondelli. È tutto vero. Va bene. Chiedo a papà. Chiedo a papà volentieri. Papà, se stai esaurito sta musica. Già sì, perché gliela fai sentire a nastro. E la mamma come sta, la mamma? Fa le cose zozze con la segretaria. Esatto, intanto... E la mamma cosa dice? Mamma... Dorme. Come mai dorme la mamma? Perché per Natale gli hanno regalato il Tavor. Il Tavor, esatto. Sì, il Tavor. Che funziona sempre sulla mamma. Fatto con letto gli è passato. Va bene, Francesc, in ogni caso un po' ci sei mancato, ci sentiamo la prossima. Ma aspetta, non ti ho detto il regalo più bello. Ovvero? Quale? Per la bici chopper, sai che io ho la bici chopper? Sì, la bici metal, mi ricordo. La bici metal? Sì. Un navigatore satellitare con la voce di Dio. Com'è la voce di Dio, il Signore? No, Ronnie James Dio. Ah. Aspetta, devo salutare che mi sta dalla strada per la Highway 2. Dai, vuoi tu? Ciao, Francesco. Trattieniti, Francesco. Highway 2. Trattieniti, Francesco. Non credere a tutto quello che senti. weren't true, you know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. La storia del rock sotto gamba. Assolutamente non sottovalutate la storia del rock. È storia a tutti gli effetti. Prima o poi potreste pentirvene. Prima o poi uscirà una materia nelle scuole. Esatto. Intitolata Storia del rock. Del rock, a cura di Roberto Fricantoni e dell'Ariele. Esatto. Speriamo che con tanto di interrogazioni e di esami finali. Speriamo ci pagheranno bene. Ecco, coniugando la frase anche un po' così, il test attitudinale di oggi. Sì. Oggi è robe da ricchi, l'abbiamo si chiamato. Si può intitolare robe da ricchi. Detto anche robe da sciuri. Da sciuri, molto da noi, dalle nostre parti. Era il lontano 28 novembre del 2005. Quando? Sì, giusto tre anni fa. È un aneddoto. Quando il multimiliardario ebreo David H. Brooks organizza una festa per festeggiare il bat mitzvah della figlia dodicenne Elizabeth. Bravissimo. Con l'H. Ho apprezzato molto la sua pronuncia. Non avendo particolari problemi economici, il suddetto multimiliardario per l'occasione ha permesso alla figlia di chiedere qualsiasi cosa. Cosa può aver chiesto la tenera Elizabeth? Ipotesi A. Elizabeth chiese, e le fu concesso, che Jimmy Page le facesse una lezione privata di chitarra, essendo la piccola Elizabeth una fan sfegatata dei Led Zeppelin. Oh, se c'è i soldi magari è vero, oppure ipotesi B. Elizabeth chiese ed ottenne un concerto privato con alcuni dei suoi beniamini, ovvero Tom Petty, gli Aerosmith, Joe Walsh, Stevie Nicks e 50 Cent. Ah beh, avendo i soldi lo si può fare, oppure ipotesi C. Elizabeth chiese ed ottenne dal padre la possibilità di festeggiare il suo bat mitzvah a Graceland, la residenza di Elvis Presley. L'affitto di tutta Graceland per una settimana fu pagato in quell'occasione 5 milioni di dollari. Cosa chiese Elizabeth al padre David per il suo bat mitzvah del 2005? Ipotesi A, B o C? La soluzione? Come al solito ve la diamo dopo, e c'è la risposta esatta a tra poco. Restate con noi.